In diretta dagli studi di Radio Panorama a Termini Imerese, Andrea Massario, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda. Ed eccoci nella seconda puntata del 2013, ma la prima con il nostro regista Bruma. Ciao Bruma! Yeah. Ciao! Stai bene? Ti sei ripreso? Sì, adesso mi sono ripreso. Mi ci fa piacere perché mai... Ma vi sono mancato un po'. Guarda, dopo la cazzata che hai fatto prima un po' meno, devo ma dire. Ma no, guarda, è stato tutto così, insomma. Però a me piace... l'emozione, sì, del ritorno, sai, l'anno nuovo, il 2013. Sì, ma poi a me piace quando Andrea deve subito buttarsi nella mischia e chiamarsi... Ma guarda che bravo! Ma cioè... poi chiamarsi Andrea Massario, cioè da solo... aggiunge una I, cioè lui che è il re delle... il suo nome, lui è il re delle cazzate e riesce anche a superarsi col suo nome. Ciao Andrea, come ciao, stai? Ciao, bene, no, perché da poco ho cambiato nome, prima avevo un nome di donna, come dicevo poc'anzi, sì. Il nostro regista, il nostro, sì, vabbè, superiore, superiore, super tutto. L'uomo della montagna. Ha detto sì. L'uomo montagna. Ma quello è l'uomo del monte. L'uomo del monte. Ma tu te lo ricordi l'uomo del monte? No. Come no? Però diceva sempre sì. Sì, diceva sempre sì. Sempre. Sei gay? Sì. Ti piace la banana? Sì. Vendi ananas? Vabbè. Poi diceva vabbè, alla fine si era seccato, sì. Diceva vabbè. Va bene, oggi puntata ricca, amici ficca, come diceva qualcuno, abbiamo ospiti importanti, avremo il Luke Orient. Il Luke Orient, che sono un gruppo che ha iniziato negli anni 80, ora se non sbaglio, 81, 82, poi vedremo meglio e sentiremo rock del gruppo, sì, Luke Orient. Sì, sì. E poi avremo Dante Fontone, che è un altro artista che è uscito da poco con un nuovo album. Lui gira, esce album. Esce, se ne va. Come no, l'uomo che usciva... libro. Come l'uomo che usciva la gente, lui usciva gli album. Lui usciva gli album. Assolutamente sì, ma diamo i contatti, perché se volete dirci qualcosa, prenderci a male parole, dovete dircelo. E allora siamo su facebook.com/l'onda in onda, sempre con la L, puntualizziamo, e su twitter.com potete cinguettare a twitter.com/onda in onda. Se volete mandare un sms, oggi ce lo chiedeva il nostro caro vicepresidente o presidente? Presidente del consiglio. Del consiglio comunale, sì, potete mandare un sms al 380 76 90 204, o telefonarci allo 091 888 5182. Ma allora, ridiamo più lentamente i numeri: 380 76 90 204, gli sms lentamente, diciamo un par de sì, infatti. L'iPhone invece 091 888 5182. Ma non possiamo cominciare questa seconda puntata dell'anno se non con la nostra sigla. 1, 2, 3, 4. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, clappio, do, c'è, piermo, se va, chiamare! 1, 2, 3, 4! Noi siamo i giovani. Eccoci qui in diretta con questa nuovissima puntata dell'Onda in Onda. È stata una settimana importante, per esempio Berlusconi è andato da Michele Santoro. Che ne hai pensato, Andrea, sinceramente? In realtà è Santoro che è stato spietato da Berlusconi. Questa l'ha detta qualcuno, se ma non questa sbaglio. L'ha detta tutti, però sì, anch'io. Diciamo che è stato un vantaggio un po' per tutti e due, perché Santoro si è portato 9 milioni di ascoltatori, Berlusconi qualche punto percentuale l'ha preso, magari più tardi vediamo se riusciamo a intervistarlo e a chiedergli un po' di farci il resoconto della serata. E insomma tutti contenti, perché poi Santoro non è che poi sia stato così cattivo come ci si aspettava. Tu dici che siamo messi d'accordo prima? Ma no, c'era un accordo pregresso per non parlare dei processi in corso. Ma voglio dire, non c'era nessun accordo di fare buonismo. Sì, però insomma non è stato il massimo. Diciamo massimo. Che forse Ilaria D'Amico su Sky, sì, nel nuovo programma Lo Spoglio, ha fatto di più. Che poi lui non capisco come non sia entrato dicendo: scusate, si chiama Lo Spoglio o La Spoglio? Perché mi viene voglia. Cioè, questa è una D'Amico, tra l'altro, è una bella presentatrice. bella, sì, una bella patata da pelare, diciamo così. No, quella dai, era la gatta no, da pelare, no? Dai. Cos'era, la gatta o la patata? La gatta, la gatta. La gatta era da pelare? La gatta, capito? Sempre la gatta. Ste gatte che si rasano. Lo sapevo. Tutti simbolissimi. Doveva. Creata. È sempre stata e sarà la salvezza dell'umanità. Ma sì signora, mi malatenissimo con la patata, cioè, è sempre bello ricordare quanto è bella la patata, che Dio l'ha benedata. Va bene, abbiamo dietro il vetro anche il nostro amico, come si chiama? Giuseppe, quello delle pecore. Cosa? Ciao. Ah sì, il nostro Peppino Chicapri. Senti, intanto diamo la nostra classifica settimanale. La nostra classifica, sono le 10 cose che ancora oggi minano la nostra autostima. La nostra autostima. Ma d'altronde, da uno che si autodefinisce massario, non mi stupisco più di nulla. Esatto. Io direi di partire subito intanto col primo pezzo, poi torniamo con le ultime notizie, quelle veramente importanti, quelle che lasciano, non potete essere trovati sprovvisti di conoscenza, diciamo così. Va bene, ci ascoltiamo i Giorno Verde, detti anche i Green Day, con Dirty Rotten Bastards. E qui intanto si poga di brutto dentro lo studio di Radio Panorama a Termini Merese. E posso dirlo che ore sono, Andrea? Perché l'altra volta mi hai quasi inibito. No, puoi dirlo che ore sono. Sai, davvero? Perché? Perché mi sento che è bello essere senza tempo, senza luogo, senza orario. Comunque sono le ore 18 e 19 minuti. Per la prima volta andiamo in onda alle 18 e Peppino Chicapri dietro il vetro è contento. Oggi avete aperto Google? No? Non lo so, chi lo stai chiedendo? A noi? Forse sì. Come fanno a rispondermi live? Dicevo, ma magari vuole saperlo da casa, dal... Come fanno da casa a dirmi live sì? Metti che ce la fanno, che ne sai? Oddio, potrebbero anche scriverci sempre sulla bacheca di facebook.com/l'onda in onda. Bravo. Però comunque, oggi mi sono collegato su google.it e c'era uno di quelli che si chiamano Doodle. Dove c'era un... Quando cambiano le scritte di Google. Ma solo era un giochino. A tema. Sì, un giochino dove tu dovevi praticamente spazzare una pista da hockey su ghiaccio. Dopo che tutti ci hanno fatto le varie, insomma, sì, i vari giri. L'ho fatto pure io. Bravissimo. Io sono arrivato, non mi ricordo, a 300 e rotti punti, una cosa del genere. E ho detto, poi alla fine però mi sono detto, perché? Cioè, c'è essere un motivo. Ecco, allora tu ci cliccavi e ti compare Frank Zamboni. Oggi Doodle lo ricorda. Chi è Frank Zamboni? Ecco, lui che ha inventato esattamente la macchina per levigare le piste di ghiaccio. Ed è ricordato da Google. Ed è ricordato perché prima ci volevano almeno un'ora e mezza e tre persone che lavorassero. Adesso una sola persona, 10 minuti, si fa un giretto come chiunque sia andato a pattina su ghiaccio sa. Quindi quando spunterà su Google tipo Google, sarà per ricordare Andrea Massaro. Certo. cioè, ovviamente si chiamerà quel giorno Google ricordando Andrea Massaro. Ovviamente. Io invece volevo dirvi La notizia più seria su come fare veramente e-commerce. E poi parliamo del corpo della donna, no? Utilizzato Questo invece è capitato per un caso fortuito. Vedi, Gianluca stava uscendo, ma appena hai detto corpo della donna è rimasto. Ma di cosa stiamo parlando? Vorrei fare notare questo ragazzo che è venuto a trovarci e resta. Ci saluta una donna, se ne va tutti, e guarda Gianluca studio, infatti se ne va pure. Appena svuota. Una donna se ne va, Gianluca va con lei. Lo studio si svuota. Ma qual è la donna notizia? Parla, ma noi non la sentiamo. Comunque, qual è la notizia? L'unica donna. Ok. Va bene, vai con la notizia. La notizia è questa: volete fare dei belli affari, potete anche sbagliare, no? Certo. E creare un vero e proprio caso mediatico, comunque mediatico, diciamo, virale. Esatto. Virale. Sì. Perché? Perché una donna, Amy Jones, di 21 anni, ha fotografato un vestito da mettere su eBay. Tra l'altro, un vestito orribile. Cioè, sì. Tra l'orrendo e il banale, non saprei. Veramente brutto, proprio brutto. Andate a cercare schifo. Amy Jones. No, ma ora vi dirò come andate Amy a cercare. Amy Jones banana. Esatto, perché il vestito è giallo, effettivamente. Sì. Ma non fate quello che state per fare, perché prima devo darvi l'hashtag che dovete cercare e vedere, insomma, anche una bella cosa, voglio dire. Cosa è successo? Lei ha fotografato questo suo vestito giallo per venderlo su eBay, ma non ha fatto i conti con lo specchio vicino al suo armadio. E fammi indovinare. Il suo corpo praticamente nudo, cioè nudo totale, era senza mutande ma col reggiseno. Che poi attenzione, infatti non è proprio integrale, è quasi integrale, è un passo prima del biscotto dietetico, perché c'ha il reggiseno ma non ha gli slip. Esatto. Quindi abbiamo la patata ma non i meloncini. Esatto, dovrebbe partire la patata, ma per fortuna no, il nostro reggiseno. Di nuovo. No, basta. No, vabbè. Però, è finito, insomma, questo suo corpo in nudo. Faccia protetta. Sì, però quando vuoi tu mettila quando vuoi, noi non dispiace. Vabbè, vai. Insomma, questo suo corpo è finito nell'immagine che la ragazza ha poi pubblicato sul popolare sito d'aste. Dall'imbarazzante errore si sono accorti invece gli utenti di eBay, che hanno condiviso la foto su Twitter attraverso un hashtag. Hanno condiviso attraverso questo hashtag che io vi invito ad andare a cercare. Se lo riesci a dire. eBay Yellow Skater Dress. Yellow Skater Dress. Skater Aspetta dress. Perché questo sarebbe il vestito che mettono le skater. Ma non credo. Non skater care. È così brutto, guarda, che una skater. Scusami, insomma, io ho una domanda. Vabbè, sì. No, finisci la notizia, poi una domanda. A quel punto la 22enne inglese, residente nella contea di Oxfordshire, ha sostituito la prima immagine con un'altra in cui appare vestita vicino al vestito. È un po' difficile. Vestita vicino al vestito. Quell'abito giallo, in vendita ad un prezzo iniziale di 15 sterline, pare sia stato acquistato in seguito al polverone mediatico per la cifra astronomica di... Aprite le orecchie. 153.000 sterline, l'equivalente di 184.000 euro. Cioè, allora, a parte che ovviamente so che ci sono tanti miliardari malati nel mondo. Tra l'altro la ragazza vestita è veramente più brutta. Aspetta, scusami. No, ma torna dietro. Non può essere che la stessa. È la stessa. Non è vero, vai indietro, vai alla prima foto. Te lo giuro. Ma qui è più brutta. Forse brutta, lì era truccata. Sì, è truccata. È più bella vestita. Sempre senza mutande. Sempre senza mutande. Sì, però coperte dalla felpa Nike. Ma è sempre senza mutande. Assolutamente. Ma la mia domanda è: ora voi... Ovviamente sono nati anche dei... sì, sono nati delle altre cose stupide, tipo un ciccione che si crea la foto scrivendo "Not an Aeson Yellow Skater Dress", cioè non un vestito giallo come quello di Lanco. Sì, ma io voglio fare una domanda sempre: voi ci credete davvero che lei non si sia accorta che nella foto dai, sia nuda? No, dai, io non ci credo, dai, non perché così. Non è uno specchio in fondo casuale, è proprio una striscia iniziale della caso, foto, cioè. Non ci credo, Andrea, non ci credo. Io credo che lei l'abbia fatto apposta. Poi ha la faccia di una che non si è depilata. Ha avuto la... Posso assicurarti? Come posso assicurarti? Perché la foto non si vede. A quanto pare lui è andato a vedere quella originale. Su qui eBay, è stata coperta. Se vai su eBay la trovi integrale la foto. O su Twitter. Andateci, eBay Yellow Skater Dress. Anche è l'hashtag di Twitter, quindi. Comunque io non ci credo, secondo me lei l'ha fatto. E infatti sì, aveva ragione Andrea. Comunque lei lo ha fatto perché invece sperava proprio in tutto questo. Comunque che non di venderlo 184.000 euro, perché non ci poteva credere nessuno. Però pensava di sollevare un polverone, sai, per diventare famosi al giorno d'oggi. No, sai, allora io vi invito invece a cercare il mio account di eBay, perché sto vendendo le mie mutande e ci sono io. che sei senza, le ho fotografate senza mutande. Andrea Massario col reggisenio, ma non con il boxrier. Esatto, che sembra il nome esetto. Di un esetto. Stasera proprio Andrea ci sta regando delle perle. Va bene, andiamo a un'altra notizia. Per esempio, sai che sta per uscire il... Ah no, no, ne parliamo dopo, perché credo sia il tempo di spararci un altro pezzo. E allora ci ascoltiamo gli Status Quo con Down Down. E allora è il momento di lanciare la pubblicità, ma non andate via, perché chi va via non è figlio di Maria. A dopo. Ma tutto no. Ma Michelino ormai deve lanciare lui la pubblicità. Ah vabbè, allora Michelino, hai l'onore di lanciare la pubblicità, vai. Pubblicità. Pubblicità. Trovare Ed eccoci tornati sempre in diretta con l'Onda in Onda. So che abbiamo già in onda al telefono aspetta, è Rock con due R. Però prima volevo velocissimamente salutare Sara e Stefania che ci stanno ascoltando da Palermo e si divertono tanto, quindi speriamo apprezzino anche questa intervista. E allora diamo, come abbiamo già anticipato, il benvenuto qui negli studi dell'Onda in Onda al telefono a Rock dei Look Orient. Ciao Rock. Ciao ragazzi. Ciao. Come ciao. Stai? Qua che invidia, qua fa un freddo boia. Sicilia. Qui, ma sì, bella. Diciamo che tu cosa intendi per freddo boia? Che quanti gradi ci sono lì? Ma se non è una questione di gradi, è una questione che c'è obbora e che c'è il vento che ti entra dappertutto. Sì, immagino, si vola, si decolla, insomma, in svariati modi. No, qui ci sono 9 gradi, che per noi è tipo freddo polare, però non c'è granché. Sì, per voi sì, ma per noi. Sì, noi praticamente c'è gente che si è murata viva in casa, quindi è un po' diverso, diciamo, la concezione di freddo. Senti, io devo confessare a te e a tutti voi del gruppo che non vi conoscevo prima di sapere qualche giorno fa che vi avremmo intervistato. Confesso la mia pregressa ignoranza, però ho cominciato a recuperare il tempo perduto. Vi ho ascoltato diverse cose e devo dirvi complimenti, cioè ve li dico questi proprio sinceri di cuore da parte mia. Beh, grazie. Sì, assolutamente, grazie, veramente. Non è difficile non conoscere. C'è un sacco di gente in giro, produzioni di tutti i tipi. Sì, lo so, però quando ascolti le cose interessanti che non sono, diciamo, mainstream, alle volte ti girano un po' le scatole perché vorresti che si conoscessero un po' di più. Sì, beh, vabbè, questo è il frutto, sai, come una parcellizzazione pazzesca. Adesso i musicisti stanno tornando come erano nei secoli bui, cioè dei morti di fame che trovano espressione suonando davanti a delle persone dal vivo. Ma sì, è quella la dimensione poi più bella. Dico, penso che anche voi amiate molto suonare dal vivo, come penso qualsiasi musicista che ami veramente questo, che è duro definire mestiere perché è una passione talmente grande che quasi sembra strano definirla mestiere. È una cosa che ti prende tutta la vita, non è solo un mestiere. Quando sì, dipende. Se scrivi la musica e hai questa passione di volante, sì, sei finito. Sì. E infatti, ma voi come avete iniziato e quando avete iniziato come gruppo? Ma sai, questa è una cosa, mi ha cominciato negli anni '80. Sì. Perché tutti quanti avevamo questo segretamente, questo desiderio di espressione. Dopo, per mille motivi, tra cui anche famiglie, figli, eccetera, abbiamo interrotto per un bel po'. Sì. A un certo momento ci siamo accorti che non ce la facevamo più a star senza. Sì, ma è senza rendita di nessun tipo, proprio così per il piacere di tornare insieme perché non ce la faceva più stare senza. Mi teneva di suonare, cosa devo fare? Sì, è una cosa che ti scoppia dentro, non la puoi trattenere. Cioè, quando senti che torna, è come la scimmia della musica, vi ha ripreso da dietro, alle spalle, e quindi non ci puoi fare niente. Sì, diciamo così. Sì, sì, diciamo così. E quindi vi siete ritrovati, se non sbaglio, nel 2005, correggimi se sbaglio. Sì. Nel 2005, abbiamo fatto qualcosa, dopodiché siamo finiti proprio nel gorgo dell'ispirazione, o almeno quella che a noi sembra tale, e ci siamo messi a produrre qualcosa di più serio. Ah, ho capito. Diciamo, avete avuto una virata verso qualcuno dei tanti generi che toccavate, o siete rimasti sempre in bilico tra diversi generi? Senti che c'è un'impronta. No, sai, a noi continua a piacere la musica in generale. È questa, ovvero la bella musica di tutti i generi. Certo. Perché ce n'è effettivamente in tutti i generi. Tanta è bella, sì. Parlo da Bach agli AC/DC, vuol dire ci sono un sacco di belle cose, no? Sì. E poi dei limiti, non vedo proprio perché. E quindi andiamo su questa fasciariga qui. Noi in questo momento, mentre stiamo parlando con te, non so se lo senti, ma in sottofondo abbiamo il pezzo La Casa. Stiamo ascoltando, sì, mentre sì, stiamo parlando con te. Lo chiediamo sempre a quelli che intervistiamo: c'è un pezzo al quale in un certo modo siete più legati, qualcosa che per un motivo X magari sentite più vostra, ancora più di tutti, che sono sicuramente dei pezzi a cui per motivi vari siete legati, ma qualcosa un po' di più? Sai, dipende un po' dai periodi, se devo essere sincero. Io sono abbastanza volubile. Quando arriva l'estate mi piace sentire le melodie più balcaniche, più orientali, o qualche ritmo africano. Quando arriva l'autunno mi sento più rocker. Ah, quindi vai un po' a stagioni, vai un po' a stagioni. Sì, anche così. Senti, ma parlando dell'ultimo disco uscito da pochissimo, La Via Grand Vitesse, spero di averlo detto con una pronuncia quantomeno ascoltabile, non dico che era proprio perfetta, però parlaci un po' di questo disco, come è nato, che tempo di gestazione ha conosciuto. Tra l'altro nel frattempo in sottofondo stiamo sentendo la title track, proprio La Via Grand Vitesse. Sì, abbiamo dei tempi abbastanza lunghi, perché non potendo vivere solo di musica dobbiamo anche lavorare. Sì. E quindi sono canzoni scritte, pezzi scritti in un arco di 2 anni. Ah, quindi hanno una gestazione molto lunga. Sì, assolutamente. Sì. Per i tempi anche perché che... ti ripeto, non c'è questo problema di dover soddisfare qualcuno che ti tampina perché devi uscire con le... Lo facciamo per puro piacere. Questo è bellissimo, questo è bellissimo. Quando ce lo si può permettere, cioè senza avere alcuna pressione forte esterna, è sicuramente bello lasciare i propri tempi a ciascuna delle canzoni. Sì, sì, infatti. E siccome siamo un po' anche, cerchiamo il nostro tempo ritagliandolo tra lavoro, famiglia, eccetera, dobbiamo correre comunque per quanto non sembri. E quindi questo concetto di vita a grande velocità che noi vorremmo rallentare in qualche modo, per fermare gli attimi migliori, abbiamo cercato di tirarlo fuori in questo album. In questo album. Ma state già portando l'album in giro nei concerti dal vivo o c'è un tour che sta per cominciare alle porte? Ma abbiamo delle date ma sporadiche, non è che... Sai cos'è? È un po' il concetto del tour e del concerto. Sì. Stiamo cercando di muoverci verso un modo di creare degli eventi che non siano solo ed esclusivamente il concerto, il gruppo che va lì e suona, sì, ma qualcosa di più coinvolgente con il pubblico e quindi non necessariamente in teatro. Un po' come se fossero degli showcase tra amici, tra persone che vogliono scambiarsi tanto. Sì, sì. Cercare di creare un'atmosfera che abbia un senso questa musica, raccontare queste canzoni, eccetera. Sì, sì, sì, ho ben inteso quello che vuoi dire. Beh, bellissimo, perché così la musica gira a 360 gradi attorno a tutto. Va bene, Rock, noi continuiamo ad ascoltarci in sottofondo La Via Grand Vitesse. Ti ringraziamo per averci dato l'onore di essere qui ospite nei nostri studi, anche se telefonicamente. Grazie a voi. E in bocca al lupo per tutto, per questo lavoro e per il futuro soprattutto. Grazie. Grazie ragazzi, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Eccoci tornati sempre qui dopo aver intervistato perché abbiamo anche un po' abbiamo intervistato Rock e insomma. Allora, volevo dire che dobbiamo cominciare a dare la 10ª posizione della classifica delle 10 cose che ancora oggi minano la nostra autostima. Al 10º posto, e noi della radio ci riguarda, visto che stanotte a mezzanotte ci sarà la replica, c'è risentire la propria voce registrata. C'era chi, quando suo padre faceva i filmini, cercava di non essere mai ripreso. C'era chi veniva ripreso contro la sua volontà, e c'era chi in quel video parlava e quando si ascoltava pensava: ma io parlo così. E questo succede sempre, succede. È arrivata un'altra ragazza, quindi la patata continua a regnare nell'onda in onda. studio sempre regna, sì. Ma andiamo subito al nono posto. Il diario al nono decimo posto, non per, no, perché senso. Hai visto la ragazza e ti sei un po' sballato. Esatto. Il diario delle superiori con le dediche. C'era chi a metà agosto si faceva il giro di tutte le cartellerie per comprare la smemoranda. C'era chi su quella smemoranda voleva che tutti ci scrivessero, anche quelli che odiava. Questo è vero, confermo. C'era chi aveva una smemoranda che gli occupava tre quarti della cartella da quanto i fogli erano gonfi. C'era chi passava ore a rileggersele quelle dediche. Il fatto è che oggi non c'è più la smemoranda, ma tutti sono in cerca di un'agenda nuova, l'agenda Monti. Solo che la danno. Puoi accompagnarlo all'uscita, no, vabbè, la ragazza magari. No, non lo so, così. Invece all'ottavo posto abbiamo lo slang di un tempo. C'era chi usava uno slang tutto suo. C'era chi le parole se le inventava. E ne conosco uno. Le parlate di compagnia, di quartiere, di città e di regione. C'erano parole più lunghe di quelle che avrebbero dovuto abbreviare. Beh, sì. E questo è l'ottavo posto. Per sapere tutti gli altri posti della nostra classifica delle 10 cose che ancora oggi mirano la nostra autostima, restate con noi perché insomma ne vedrete delle belle. Ma passiamo subito alla seconda notizia invece importante di questo di questa rassegna di oggi delle nostre insomma vaccate, no? Delle nostre vaccate. Rimaniamo in tema di cultura. Di sì. Cultura che non fa, diciamo, che non usa, non sfrutta il corpo delle donne, no. Come la vendita dell'abito su eBay a 184.000 dollari. Ridiamolo l'hashtag, magari sì, più sì, tardi. Sì, magari più tardi lo ridiamo perché non ce lo ricordiamo. Che questa cosa notizia succede? È importante. Donna prosperosa affitta i suoi seni per annunci pubblicità. Non ce la fa Andrea, lui non può cambiare argomento, niente. Ma è interessante, è pubblicità. Spot sul seno nudo, fotografato e messo online. C'è da dire però che lei se le stringe, no? Come, sì, come due, per fare vedere, un po' come due push-up. Come due push-up. Sì. È il modo inventato da una donna della Repubblica Ceca per guadagnare un po' di soldi. Una scritta pubblicitaria su un solo seno costa 6 euro. Per due c'è il prezzo speciale di 11 euro. Dico che non è neanche male. La donna, il cui nome è sconosciuto, spiega sul sito cieco in cui appaiono le foto con tanto di sponsor. Il fatto è che il sito non può vedere perché queste foto. Non vede le foto. Perché è cieco. Cioè, stiamo arrivando a proprio battute non di quinta categoria. Cioè, c'è una ragazza che sistema gli occhiali sconvolta dal sono livello. Sono una bellissima ragazza e offro il mio seno per biglietti di auguri e pubblicità. Inviatemi i vostri messaggi e vi manderò una foto con la scritta per sul mio seno. Per biglietti di auguri. Sì, vedi tu. Vuoi cioè fare gli auguri? Fare auguri a cioè tu vuoi fare gli auguri? No, alla tua ragazza è più carino. Cioè, allora chiami le tette. 11 euro. Esatto, paghi un sito cieco, quindi chi non ti vede, così resti nell'anonimato. Privacy. E praticamente lui ti farà vedere che spunteranno gli auguri sulle tette della ragazza. Roba molto interessante. E questo tipo di advertising ha già attirato 2000 mi piace su Facebook. Ma chissà perché. Invece parlando di cose un po' meno serie, sai che ora è uscito, appena uscito se non sbaglio, il film Django Unchained. Django Unchained. O uscirà sì, venerdì. Ce ne occuperemo tra l'altro la prossima settimana con un giornalista di Milano Finanza, molto appassionato di dei film di Tarantino, sì. Che ha scritto un romanzo su Gualtiero Jacopetti. Perché? Perché Gualtiero Jacopetti? Perché lui... Ma tu devi ridirlo perché non si è capito. Gualtiero Jacopetti. Ecco, perché perché nel, quanto pare Tarantino ha citato esplicitamente Jacopetti in questo film. Ah. E quindi ne parleremo con lui. Ma io a proposito del film però voglio dire, e qua ci vorrebbe l'applauso se il regista può chiamare il nostro pubblico, prima lo dico e poi l'applauso ovviamente, perché la nostra cantante o cantantessa Elisa ha avuto l'onore e l'onere di comporre le parole per la musica di Morricone che è presente sui titoli di testa di Django. Esatto, io direi che qua vero, ci sta l'applauso. È vero. Elisa si merita un grandissimo applauso. Va bene, tu lo sai che la mappa del paradiso è stata disegnata da un uomo che ci sarebbe stato quattro volte? No, non ma lo come sapevo. Non lo sai? No, anch'io ci sono stato. Sì, è Mitembu, è consigliato una... Mitembu. Come si chiama? Mitembu. Mitembu. Ridillo. Mitembu. È il la boccuccia di Massaro con bu. Mitembu. Mitembu. Mitembu ka. Scusa, Michelino, quindi come si chiama il profeta che ha disegnato il paradiso? Soffriva, Mitembu. Mitembu. Non è che ogni volta il nome cambia con più. Andrea, di sta zitto, Michelino. Stai zitto, cretino. Comunque, Mitembu è considerato una sorta di profeta dai suoi concittadini. Questi lo visitano di frequente in grandi folle per sentire i suoi racconti sulle visite in paradiso. Perché dice di esserci stato nel 98, 2004, 2006 e 2008. Allora, spesso, diciamo. Sì, e sarebbero partiti insomma da una convocazione da parte dell'arcangelo Gabriele che nel 93 è venuto a visitarlo. L'ha convocati. Esatto. Non ci sono andati di spontanea volontà. Bravissima. E allora è partita da lì l'idea di disegnare una mappa. Ovviamente sotto invito puoi andare. Certo, esatto. Ma lei ha fatto bene, che lui si dice, quando è così quando uno arriva a paradiso io già avrei disegnato una mappa all'ultimo. E quindi un applauso per Mutembo. Mutembo. Ma io la voglio, dove si trova questa mappa? Ma credo che sia in vendita, solo perché è disinteressata. No, non so bene veramente se è in vendita, mi devo informare. Ma... quindi cercate mappa di Mutembo e se sapete dove si trova ditecelo. Cercheremo, cercheremo. Va bene, allora ci sentiamo un pezzo che io non conosco. The Luminers, Huawei, ma torniamo subitissimo. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I. Con Hohei. Antonio non la conosce, ma in realtà non la vede perché la scaletta è lontana dai suoi occhi. Lui, essendo senza occhiali, è ciecato. Vabbè, io non è che mi manchi così tanto. È una talpa. 0,50-0,75. Ma sei tu che hai fatto il sito cieco della cretino, ragazza. Sei un cretino. Ma dopo questa battuta ulteriore siete due cretini. Quello che mi imita è tu che fai le battute. Siamo sempre qui all'Onda in Onda e vedo che Andrea si trova in un famosissimo sito, sì, che è quello il sito di Attivissimo. Attivissimo. Paolo Attivissimo, abbiamo avuto l'onore di intervistare. Sì. Infatti, per quanto riguardava la sonda Curiosity su Marte, che era appena atterrata su Marte e stava cominciando a mandare le sue prime immagini. Ma perché ci occupiamo di nuovo di Attivissimo? Perché diciamo lui è stato ha avuto un battibecco qualche giorno fa, due giorni fa, ma continua in realtà la serie di battibecchi con l'onorevole Giuseppe Vatinno. Che poi se fosse siciliano sarebbero facili le battute. Esatto. Giuseppe, senti, t'ascoltare, però la Vatinno. Cioè. Ma non scherzare con Vatinno, perché lui insomma è un... se la prende con i cyberbulli, no? Ma anche lui in realtà è un cyberbullo. Perché? Cos'è successo? L'onorevole Giuseppe Vatinno è uno dei firmatari, insieme a Francesco Barbato, di un'interrogazione parlamentare sugli extraterrestri. Ragazzi, io l'ho letta. Non sapevo, non riuscivo a smettere di ridere. È qualcosa di quindi qualche giorno facciamo un due ore di puntata solo per leggere. Lui seriamente delle esclamazioni di Medvedev, che ha detto in una trasmissione che lui ha la valigetta con i documenti top secret degli alieni e per capire veramente come funziona la cosa bisogna vedere Men in Black. E questo ci ha creduto. Cioè quindi, l'ha scritto davvero? Cioè, ha preparato un'interrogazione parlamentare. Lui ha preparato l'interrogazione parlamentare parlando di questi e altri casi, compreso l'area 51. Cioè, non ho parole. Ma è molto lungo? Possiamo dedicare qualche giorno un po' di tempo a leggerlo? No, è lunga l'interrogazione, è anche ridicola. Al mio parere, ovviamente, sempre caro onorevole Vatinno, è una critica. Ma cos'è successo? Qualcuno l'ha segnalata ad Attivissimo. Attivissimo, sì. Come me, ha detto: guarda, ti rispondo non appena smetto di ridere. Non appena. Vatinno gli ha risposto su Twitter, questo qui, e insomma, chiunque gli ha detto: ma tu la mattina ti fai la barbetta con il rasoio di Occam? Una battuta ridicola. E Attivissimo ha risposto. L'ultima risposta di Attivissimo è stata: chiunque si abbassi ad attacchi personali invece di criticare le idee ha perso in partenza la discussione. Da lì segue una serie di tweet di offesa di Vatinno verso Attivissimo. il quale non può rispondere perché risponde, l'onorevole Vatino risponde a sui tweet che sono, diciamo, bloccati, quindi il meccanismo è un po' difficile, ma vi invito a seguire la vicenda nel post, nel blog di Attivissimo, attivissimo.blogspot.it. Cosa succede in realtà? Succede che l'onorevole Vatino, che fa capo all'IDV, tra l'altro, Italia dei valori, diciamolo perché non siamo ancora in par condicio, scrive un post sul suo blog dicendo che Attivissimo fa bufale, smentendo addirittura se stesso, che è verificabile sui tweet. Cioè, nel senso, è come se io ti dicessi su Twitter: Antonio, sei un cretino, e poi scrivo sul mio blog che tu mi hai detto che sono un cretino. Ah, ok. Quindi certo. è anche malata la cosa. Sì. Come vabbè, atteggiamento. Ma sai, non mi stupiscono ormai. Qualunque persona si chiami onorevole, sì, non mi dà poi delle grandi, sì, sorprese. È uno che ce l'ha col CICAP, no? Perché. Sì. Cos'è il CICAP? Il CICAP è il comitato che studia i fenomeni paranormali in Italia. Ah, ok, in Italia, sì. Creato da Piero Angela, tra l'altro fondato da Piero Angela, uno dei fondatori è Piero Angela, e diciamo lui ce l'ha con loro perché diciamo cercano di trovare le bufale e i fenomeni senza interrogarsi invece su quali potrebbero essere le verità. Cioè, per lui è in vero in partenza. Ah, ok. Devi dimostrare che non è vero. Bene, cioè, devo dire che è un metodo molto interessante. Sì, interessante. È strana come cosa. Comunque, insomma, questa è la vicenda di cui volevo parlare. Vi invito a seguirla sul blog di Attivissimo, perché insomma i politici ne hanno un po' per tutti, anche dalla parte, diciamo, dell'Italia dei valori. Sì, vabbè, ma l'Italia dei valori ci ha dato delle grandi sorprese, delle grandi. Con il grande Scilly. Grandissimo Scilly. Scilly, ma io lo voglio. Scilly non è il nome di un sapone, se non sbaglio. Scilly e Cariddo. Quello intimo. Scilly e Cariddo. Scilly e Cariddo. Okay. Attenzione, il regista cerca. Non è sci quello, è C. Cosa? Quello era una battuta, ho capito, ma era una battuta. Ma non l'aveva capito nessuno. Ma no, veramente Scilly, l'avevano capito, compare. Perché non capisco. Ma c'è anche il gruppo Red Hot Scilly Pepper. Che poi tanto è Cili, quindi proprio non qui si è cercata la S, è un cretino. Vabbè, a proposito di politica, non so se hai visto che tecnica stanno usando i simpatizzanti di Ingroia per non fare battute sul cognome, ti prego. No. Non hai la faccia di uno che non voglia fare. Figurati. Vabbè, comunque, di Antonio Ingroia, c'è la R. Comunque, hanno fatto, insomma, una serie di... hanno creato delle immagini, dei poster, per pubblicizzare quelli che sono, diciamo, le aspirazioni del movimento di Ingroia, utilizzando dei famosi cartoni animati. Che ne so, Mafalda. Cioè, no, non sto scherzando. All'inizio sembrava fosse una satira fatta da altri. Mafalda, Ken, Shiro, Grisola, quello il coso. E poi su Grisù, Dylan Dog. Però è successo un problema, che l'editore di Dylan Dog si è incazzato. Si è incazzato e ha diramato un comunicato tutt'altro che simpatizzante, perché Sergio Bonelli, editore S.P.A., proprietaria del nome e dei diritti dell'utilizzazione del personaggio Dylan Dog, dichiara di non essere in alcun modo affiliata o di sostenere con l'immagine di Dylan Dog o di qualunque altro personaggio della casa editrice alcuna formazione politica, e diffida dall'utilizzo illecito del nome, dell'immagine e delle sue proprietà intellettuali. Insomma, non è stato carino. Infatti anche Ingroia ha detto, cioè, ripensiamoci, è carino usare i cartoni animati, però, insomma, parliamone un attimo con le case editrici. Magari vediamo chi è il proprietario dei diritti. Sì, ma dico, ma poi proprio Ingroia, voglio dire, un uomo che si vede Berlusconi, che gli arriva davanti, no? E si ammanetta. Non ha riflessi, mi dice Crozza. Salutiamo la Sarci, che ci scrive che ha googlato la mappa del paradiso e non la trova. Assurdo, dice, Google è troppo indietro. E invece salutiamo Giuseppe, che ormai è un nostro, diciamo, famoso ascoltatore, ci segue sempre. Famoso. Ah, okay. Come si dice quando uno ti segue sempre? Io direi assiduo. Famoso. È un nostro famoso. Però sei famoso. Stasera accendo la TV e vedo Giuseppe. Possiamo dire il cognome? Ma sì, Giuseppe. Vedo Bizzoni, Giuseppe Bizzoni. Giuseppe Bizzoni al TG1, che dice: io sono famoso. Sono famoso. Ascolto l'onda in onda. Mentre noi che lo facciamo non mi siamo assiduo, sai. Però potevi dirlo. Cioè, non è che se uno non gli viene la parola, te ne dice un'altra. Però era bello un'altra famoso. Che non c'entra niente, poi capito. Appunto, cioè, te ne capitasse una simile, potrei capire. Era bello, dai, famoso. Dai un po' di fama a chiunque. Sì, infatti. C'è intanto il regista che si gratta la testa. No, perché dice di aggiornare la nostra pubblicità, perché non è più dalle 18:30 il nostro programma, ma è dalle 18. Ma è dalle 18, la aggiorneremo, intanto lo ricordiamo, appunto, e ricordiamo soprattutto che stasera saremo in replica a mezzanotte. Quindi noi, risalutando Sara e dedicandole un pezzo, ci ascoltiamo i The James Gang con Funk 49 e poi pubblicità. ascoltando L'Onda in Onda. Torniamo in diretta dopo questa bellissima canzone di Mika. Abbiamo ma già dopo la bellissima pubblicità, esatto, che a me esatto. piace. E abbiamo con noi già in diretta Dante Pontone. Ciao Dante! Ciao a tutti! Come Ciao. Stai? Io sto bene, voi? Benissimo, benissimo. Vabbè, che tempo fa lì? E dove ti trovi in questo momento? Io sono vicino Lecco, a Casatenovo. Questa testa è nevica adesso. Ha nevicato già ieri. Ah, benissimo. Noi qui aspettiamo la neve perché c'è un po' l'aria da neve. Non qui, diciamo, dove stiamo noi a Termini, in provincia di Palermo, qui proprio a livello del mare. Però magari nelle montagne e dintorni potrebbe arrivare un po' di neve seria. Perché a quanto pare per ora c'è lo stretto di Messina in cui imperversa tempesta di neve o qualcosa di simile. Aria di neve, dicono. Va bene, dicono. Dopo questa parte meteorologica di benvenuto, allora Dante, raccontati e raccontaci il tuo nuovo singolo Adorabile. Adorabile è una canzone scritta da Sergio Vinci, sì. Prodotta anche da lui e Carlo Palma, che sono i miei produttori, componenti della Big Fest. L'ha scritta su un mio racconto, praticamente. Io non sono riuscito a canzonare questo mio percorso emotivo e ce l'ha fatta lui, per dire, anche benissimo. Infatti sembra scritta da me, però in realtà è lui l'autore. Mi hai fatto questo gran regalo e io sono stato contentissimo di cantarla. Tu hai fatto... Parla di... Sì. No, dimmi, finisci. Dicevo che parla di amore. Si sa che nelle coppie c'è sempre la persona che ama di più e in quel momento, quando tu ami di più, l'altro ama di meno, no? Effettivamente è un po' così. E questo è quello che succede nella canzone, poi... Dici che è inversamente proporzionale, diversamente proporzionale. E sì. A te è capitato di amare di più ed essere amato un po' meno, o viceversa, Dante? Esatto, sì, tendenzialmente è sempre quello che ama un po' di meno, anche perché sono molto distratto, c'ho tante cose da fare. Ho poi, capito. Quando è capitato quella volta lì, che amato di più, tutto capita, per me la prima volta... Poi tra l'altro, scusa, dobbiamo dirlo... Ricorda un po' Teorema, no? Teorema di Marco Ferradini, esattamente. Beh, diciamo che dobbiamo dirlo anche per le donne all'ascolto, da uomini etero, riconosciamo che Dante ha anche un bel pezzo di figlio. Quindi se volete collegarvi con Dante Pontone ed è single, magari Dante potrà soddisfare i vostri desideri in musica. Senti, tu hai fatto l'esperienza di X Factor oltre che Sanremo Lab nel 2007. Senti, ma com'è stata l'esperienza di X Factor? Tra l'altro era la prima edizione, se non sbaglio. Era la prima edizione, stai il primo concorrente. All'inizio proprio il primo a esibirti. Dobbiamo cantare ragazzi più giovani, poi per una necessità, diciamo, per rompere il ghiaccio, per essere sicuri, ma fecero esibire me perché avevo esperienza di palco. Hanno cominciato con gli over, Hanno iniziato con gli over, quindi ho iniziato io. Senti, Simona Ventura, lei è soddisfatta in tutti i sensi o sei stato con loro solo sul palco? No, no, perché magari adesso presentavo io X Factor, non l'ho soddisfatta, anzi l'ho insoddisfatta. L'ha insoddisfatta. L'ho fatta anche incazzare, non so se si può dire. Vabbè, no, sì, ma lo puoi dire quello che ma vuoi. Noi cerchiamo di limitarci solo perché siamo dalle 18 alle 20, perché altrimenti apri di cielo, cioè ci butterebbero fuori da ogni radio mondiale, cioè anche da quelle spagnole, polacche. Senti, quando inizia il tuo amore per la musica? Piccolissimo, ti hanno regalato uno strumento, com'è andata, come è iniziata? Ti dico, io la prima tastiera alla Bon Tempi, famosissima, non so se te la ricordate, quella arancione bianca, quei tasti... Sì. A destra quadrati, perfetto, sì, a mio fratello, a lui non gliene fregava niente. E io non mi appassionava la musica perché mio padre in macchina ascoltava, che ne so, Antonio Venditti, Claudio Baglioni. Per me la musica era proprio una noia, no? Perché intesa in quel senso lì, non perché non mi piacciono, a me non piaceva quel genere lì. Poi invece mio padre andò in Canada e riportò una cassettina dei miei cugini con Winston Bigget a Trading, soul, R&B. Qua peschi, allora, diciamo che con me peschi bene. Con me peschi bene, col sottoscritto, perché mio padre mi ha cresciuto a Otis Redding, Wilson Pickett, James Brown, Aretha Franklin. Insomma, è questo genere qui, a me piace da impazzire. Io, molto. Lì, avevo 6 anni, quando metto questa cassetta in macchina, mi è venuta la pelle d'oca, mi viene ancora adesso. Senti, ma facciamo finta che siamo a un provino, e io ti chiedo di farmi sentire quello che sai fare in 10 secondi, ok? Anche 5, fai tu. Puoi anche improvvisare dicendo l'onda in onda nel mezzo, Radio Panorama. Fai tu, noi vogliamo sentire un provino. 5-10 secondi massimo, ci stai? 5-10 secondi. Va bene? Certo, no. Allora silenzio, silenzio. E diamo il tempo di farci sentire quello che sa fare a Dante. Radio Panorama. I used to think that I could not go on. And life was nothing but an awful song. If I can see it. Bravissimo Dante Bontone. Ragazzi, cioè, ti abbiamo fermato perché qui c'era gente che si era già strappata, non ti dico cosa. Sono entrate. Addirittura sono entrate due ragazze mentre tu stavi finendo di cantare. Dico solo questo, le attiri. Perfetto. No, incredibile. Complimenti, complimenti per la voce, cioè lì non si scherza. A cappella così, pazzesco. E, mi fa segno. Ah sì, stiamo per ascoltare la tua canzone, è proprio quello, il singolo di cui abbiamo parlato. E senti, progetti, tour, stai per partire con qualcosa? Allora, io adesso qui ho diverse serate in Alta Italia. Sì. E adesso stiamo aspettando di finire il secondo singolo, che finirà, sarà pronto per fine gennaio, inizio di febbraio, e poi ci sarà il CD a fine marzo, e poi da là inizierà proprio il tour vero e proprio, che faremo comunque nei locali, nelle piazze. Mi piacciono questi piccoli accoglienti dove riesco a comunicare più facilmente, insomma. È assolutamente la dimensione più bella, quando puoi comunicare col pubblico. Va bene, Dante Pontone, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui. Grazie al telefono, agli studi di Radio Panorama, e ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, e come annunciato prima ci ascoltiamo il nuovo singolo Adorabile. Ciao Dante. Grazie mille, ciao a voi, ciao. Dimmi che senso mi dà fare tutto per te, se ogni volta vai via da me, perché usi la tua ipocrisia che si fa frenesia. Chiudi gli occhi per non vedere che sei ancora parte di me. Le gambe perché mi impedisci di entrare per paura di stare male, fingi che poi passerà e mi guardi così come fosse l'ultimo. Ritorniamo in diretta, sempre dall'Onda in Onda qui su Radio Panorama. Dobbiamo fare un po' di saluti. Intanto a Luana e Fabio che ci ascoltano alla macchina, dice che siamo dei folli e vai con la grande musica. E noi vi salutiamo. Ricordiamo il loro programma, il Music, sì, in Music Love. Love, che è in onda, se non sbaglio, aspetta, il mercoledì sicuramente, il venerdì, lunedì, mercoledì e venerdì, credo nei giorni alle pari, dispari. No, il lunedì e mercoledì alle 16 e il venerdì alle 21. Qualcosa mi dice che non ci ascolteranno mai più. E diamo il benvenuto a Eleonora e non mi ricordo l'altro nome, se me lo potete labbiare. Labbiare Simona, Simona, salutiamo Simona, Eleonora e Serena. Abbiamo quindi tre patate contro tre fagioli. Sì, vabbè. Sì, possiamo dirlo, ma parlando, esatto, patata, va bene. Principe, benissimo. Ed è viva chi l'ha creata. Che sono schiavo di questa sana cosa. Poi quando comincia a fare il romagnolo idiota mentre c'è questa canzone, io non so cosa, perché non si capisce la canzone, non si capisce quello che dici tu. Ma vogliamo sentire Michelino come direbbe viva la patata? Lo sentiamo dopo, perché parlando proprio importante di Eleonora, diciamo, può interessarti. Sì, okay. Può interessare a tutti, diciamo, tutte le ragazze, perché è la parte maschile della patata, sì, diciamo, sì. Tra l'altro è famosa la parte maschile della patata. Il patato, cioè, no, no, non è la controparte. Lui oggi gli manca le parole, è la parte. Quindi c'è una parte della patata che non è femminile, è maschile. Non è sappiamo maschile. Qual è il monte di Venere, no, qual ma è? Lo sappiamo quale parte è uguale e qual è? La sappiamo, la so io perché l'ho studiato. Tu non credo, il clou, non lo diciamo, no, perché qual è la notizia? Clooney scatenato. Ho fatto il lifting ai testicoli. What else? Scusami, mi è sembrato così. Ogni tanto centrale. Ti immagino testicoli, what else? Cioè, perché alla fine dico, se l'ha fatto lì, cos'altro deve fare? In un'intervista su Max parla di politica, omosessualità, figli, matrimoni e lifting ai testicoli. A questo punto pure la Bibbia, non so, il Vangelo. In copertina gigioneggia la Cary Grant e Clark Gable come di consueto. Ma come ha fatto a dirlo bene? Non lo so, perché ho detto anche gigioneggia. Quindi era il prima c'è gigioneggia. È come se comprasse un credito. Se dici bene gigioneggia, puoi dire tre parole straniere. Esatto. Bellissimo. Come di consueto, mentre dichiaro, non potrei mai essere un politico, ho avuto troppe donne e fatto troppo uso di droghe. La notizia... Ah, beh, sì, potrebbe. Sì. In Italia, la sì. La notizia, a dire il vero, anche se aveva già fatto il giro del mondo, nel 2008 in un'intervista a Esquire, però decisamente un'altra. Non mi sono mai fatto sistemare gli occhi, ma ho speso parecchio per farmi stirare la pelle dei testicoli. Lì sì che non mi piacciono le rughe, ma... Io non ho parole. Clooney fa l'esperto, è una tecnica nuova, a Hollywood la fanno tutti, si chiama ball ironing. Questa è da standing ovation. Ball ironing, vabbè, e dopo lo sbiancamento anale, ragazzi, è vero, c'è anche il ball ironing. Va il bene. Lifting scrotale, intervento di chirurgia estetica maschile, esiste. Vai a sapere se il bel George lo dichiara per scherzare o forse uno di quei casi in cui è meglio non sapere la verità. Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman hanno scommesso $10,000 che mi sarei sposato prima dei 40 anni. Hanno perso e mi hanno spedito gli assegni. Vabbè, capito, è come se ti dessi 3 euro se non vai a fare qualcosa, dico, vabbè. Gliel'ho mandati scommettendo il doppio che non avrei avuto figli prima dei 50. Quando mi viene l'istinto paterno vado a trovare Brad e Angelina e mi ricordo il motivo per cui sto benissimo senza marmocchi, dice nell'intervista. È la frecciatina. E sulla omosessualità tutti pensano che sia gay e chi se ne frega. Non smentirò mai nessun pettegolezzo perché non voglio che la gente possa credere che essere omosessuale sia una cosa negativa. La mia vita privata è solo mia, privata, appunto. E qua mi sa che con l'ulteriore risposta sai che è stato un grande. Apprezzo Giorgio perché caffè, non voglio figli, non voglio fare sapere se sono omosessuale o meno e quindi sono un figo come Giorgio e mi amate tutti. Vabbè, ma noi sappiamo se tu sei omosessuale, non lo diciamo tu sempre lo perché sai, lo sai e lo sa molto bene la tua schiena. Per le mie mani su di essa. Per le mie mani su di essa. Mi mancava fredda in mezzo. Le mie mani fredde sulla le mie mani fredde. Ragazzi, sulla scusate, sto solo gigioneggiando. Ma ormai si diverte a dirlo. Gigioneggio. Senti, ma io so che c'è un nostro amico che ci sta venendo a trovare. Sì. Scalpita. Quindi io lo vado a chiamare. Come Scalfari, lui Scalpita. Io credo di non tornare dopo questa battuta. Era comunque un vado a chiamarlo. Gigioneggiamento. Vabbè, vado a chiamarlo. Lui chi è? Lui chi è? Ma perché è? L'hai portato ma con perché te? L'hai portato con te? Sapevo che sarebbe entrato. Chi è? E lui è un ex medico nutrizionista. Ci viene a trovare da un po' di tempo. Ha ucciso una persona malata. Ma lo dice con una sì, ormai... ha ucciso una persona. Non è che dice, complimenti. Tempo fa. Non è che dice, ha inciso un nuovo album. Ha ucciso una persona malata di ipertensione, dandogli la ricetta all'anduia calabrese, molto, molto pepata rispetto alle dosi consigliate. E da allora, per lavare l'onta di questa tragedia, lui gira per le radio d'Italia proponendo la sua cucina calabrese, molto importante. E viene da noi il mercoledì, ma non possiamo non accoglierlo se non con la sua bellissima tarantella calabrese, perché lui è Tony Scopelliti. E lui arriverà subito dopo la nostra tarantella calabrese. Ma non preoccuparti, caro regista, puoi anche fare partire Santana, perché gli piace lo stesso. Oggi stanno succedendo, no, scusate, succedendo di tutto. Caro Tony, buonasera, mi scusi. Sì, ma senza la mia tarantella. Senza la sua tarantella, ciò. Ha ragione, ma noi abbiamo un problema con la regia. Se la trovate, ma mettete dopo, sì, è una promessa. La mettiamo dopo, eccola. Caro Tony, lei non importa. Lo sa come mi chiama? Lei cosa ha detto ora? Caro Tony, lo sapevamo. È una cosa che fanno da tanti anni. Ci scusi per i problemi di regia, ma purtroppo... Ma non si preoccupi, la denuncerò. Non è colpa del nostro regista, abbiamo dei problemi tecnici. La denuncerò al garante della privacy. Ma perché no? Ma che no. Me va? Senta, mi dica invece che ricetta ci porta oggi. I palumma ricane aglio. Calma. I palumma ricane aglio. I palummi? Arricano e aglio. E aglio. Quindi sì. Cosa sono? Piccioni? Come piccioni? Ma all'origine è... l'aglio. Ma scusi, ma lei no. Non ha mai mangiato un piccione? No, io non ho mai mangiato un piccione. Dico, piccione, gli animalisti poi chiamano. Ma che... Aspetta, lei non ha mangiato un piccione, ma mi arriva voce quando era Nico un ammazzato una nicchia. Allora, continua a ucciderli i piccioni. Ma cioè, lei è una cosa inutile, veramente. Vabbè. Ma no, sfortunatamente. Ma se ammazza, cioè, vado... si mangiasse a sto punto. No, non lo so. Vediamo com'è la ricetta. Allora, intanto. Sembra un po' macabra, quindi se ci sono ma bambini si possono mangiare i piccioni. Guardi che io mangiaio vero. Ma in Calabria voi mangiate i piccioni? Stavo dicendo in Puglia, no. Doppia denuncia, no, va no. Bene. Comunque, si mangia e la carne è veramente troppo buona. Manco chi da rigatto ci può. Comunque, allora intanto dovete prendere, se siete, quanti siamo carini, 6 cristiani, ci vuole ovviamente almeno una trentina di piccioni. 30 piccioni, andate, uno stormo. Potete andare alla villa, sparate. Ok, sparate all'impazzata. Se pigliate un bicchiere che ha la terra, pazienza, come pigliatelo con l'altro palumbo. Come fa lei, no? Con i suoi, come faceva lei da medico? Da bici. Prima di no, non piange. Comunque, tanto non ci crede nessuno ormai. Pigliate 30 palumbo. Ma come ci credono? No, che lei piange. Ah, vabbè, perché ormai ho fatto 15 anni di analisi. Allora, 30 piccioni, li pigliate, spennateli, sì. Sventrateli. Ma e infiammate. Ma come infiammate? Cioè, l'avete detto. Infilzatele. Esatto, la coda deve essere il vostro, come si dice, la miccia. Addumatelo culo e ide partono. Come lupollo. Come lupollo cusuto un culo. Che è una ricetta di Giuliano dei Negramari. Sì. Però è pugliese. Però è pugliese. A me mi piace pure la cucina pugliese. Però è meglio che da calabrese. Sì, che voi fate i piccioni. Ma fanno le orecchiette alle cime del rap. Sì, lo so. Voi fate invece i piccioni. Porca puttana. Spennati, sventrati e fiammeggiati. Esatto. Cioè, ma che schifo. Piccola addumato. Appena vi dica subito. Come si chiamano questi, questa ricetta? Voleva avere un suono. Come si chiama? Palumma e ricano aglio. Palumma e ricano aglio. Sì, quindi allora piccioni. Spennate, sventrate, fiammeggiate. Sì. Poi ci vuole olio d'oliva. Sì. Quanto? Per 30 piccioni. 5 litri. Tanto fa bene, basta, ci sono. Ma dove si possono trovare? Ci sono gli omega 3, 4, 5, 8 piccioni e 9. Anche vanno bene anche quelli di strada. Certo, no? Anzi, appena vedete che fanno stum con la non testa. È che stanno ballando, è che vanno essere ammazzati. Voglio essere uccisi. Capito? Sì. Tutto quello è un modo per dire suicidatemi. Allora poi ci vuole un rigano. C'è l'origano. Esatto, un rigo di rigano. Va bene. Sì. Poi ci vuole l'aglio, sì. Tanto pesante. E per vedere se è buono dovete assaggiare un gepezzuda senza niente altro e andare da un amico e dire ciao, quanto tempo. Se muore l'aglio, va bene l'aglio, se non è buono. E poi ci vuole sale, tanto sale. Sei iperteso un poco meno. Certo. C'è un chilo o 900 grammi. Vediamo il procedimento, come si fa? Prendete i piccioni. Poveri piccioni. Senza ali. Quindi sì. Spennate, sventrate. Fiammeggiati. Esatto, fiammeggiati. Metteteli in un tegamello bello grande. Perché se 30 piccioni non è casco. 30 piccioni, no? Esatto. Mica codica. Poi c'è sempre chi fa finta di essere morto e vola. Voi state attenti e sparate. Ma c'è spennato e fiammeggiato. Fanno finta. Sono piccioni zombie. Esatto. Capito? E fatele cucinare con l'olio. Un poco d'acqua, l'aglio o sale. Verso la fine della cottura, pigliate e giugnete un riano. Sì. Il sugo di cottura, che non si sa per un livello. Ah no, giusto, è chi dura la cottura. E dopo, pensavo che me l'ho scordato l'ingrediente. E sale, ta, passa per tutte. Opportunamente ristretto, come un caffè, capito? Mi sì. Faccio un sugo ristretto. Poi lo potete pigliare e utilizzare per condire vermicelli e spaghetti. Ma quindi una ricetta per mangiare il piccione e condire addirittura, esatto, i vermicelli. E poi prendete sì, esatto, un succo, mi serve per. Quindi è una doppia ricetta. Assolutamente, ma io ne ho un'altra velocità. Esatto. Un primo, ma lei ce n'è un'altra. No, chi dire un secondo? Un secondo. C'è anche un primo, la pasta ai finocchi di timbe. Come? La pasta con finocchi di timbe. La pasta con finocchio selvatico. Ah, i timpa significa selvatico. Sì, sì, sì. Ma guardi, vedo che c'è la piccola Simona presente che vuole sapere che ne pensa Michelino della pasta con finocchi di timpa. Michelino? E ti piace? Diglielo a Simona quanto ti piace la pasta con i finocchi timba. Vuoi ritendo? E a mamma cucina buono o è meglio zio Tony? Bravo, si vede che è istruito. Poi ti rogno un gelato i soldi. Allora, comunque, piccino, manda a fare in culo. Allora, due pugni. No, non me li dia, per favore. Di finocchio selvatico. Ah, ha avuto paura. Perché poi... lei non lo è. Vabbè, niente. Andiamo avanti. No, no. Tony, io... giusto, cioè. A terza di luglio si becca, sempre con la l'associazione privacy. Della privacy. Poi 5 kg di bucatine. Sì. E tanto 5 kg di bucatine. Esatto, ma pugni di finocchio selvatico e 5 kg di bucatine. Sa, non sanno abbinare. E trova il finocchio. Ah, è come cercare il finocchio nel pagliaio. Esatto, cercare un finocchio nel pagliaio. Sì. Poi ci vuole occhio d'oliva a piacere. Attenzione. Cioè, se volete, se vi piace, se non vi piace non mettete. Cuocete in una pendola d'acqua salata il finocchio selvatico, toglietelo, tritatelo, tenetelo da parte, poi conservatelo, salvatelo in un cassetto, dopo un anno riaprite il cassetto, se è ancora da nell'acqua di cottura leccate dei bucatini che condite con finocchio d'oliva cruda. Arrivederci a tutti quanti. Questa era Tony Scopelliti. Va bene, passiamo subito al prossimo pezzo. Avete segnato tutto, perché la prossima settimana vi interroghiamo sulle ricette di Tony. Ma ci ascoltiamo subito un pezzo, i Black Keys con Gold on the City. Rain. Stai ascoltando L'Onda in Onda. Trigger me the press people button. Nobody chat come face me with some. Like how me have 22 in a me some. Then I feel so forget the next turn fool. Press trigger me the press people button. Nobody chat come face me with some. Like how me have 22 in a me some. Then I feel so forget the next turn fool. Anytime you ready to know we see start war. See who the fist for the top board from the sky. Style is the bomb, the bomb, the dang, biggie, diggy. A room boy don't care with the bomb, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb, the dang, diggy, diggy. A room boy don't care with the bomb, the dang, diggy, diggy. Oh, now we sit down and I watch your man a live. Watch your man a own now, who a roll big. Sit down and I plan for come put man for bridge. Remember when you dig hole that hole you fit in. Certainly from where we are stop deal with. Gives a damn friend and them bad mind the flame. My style is the bomb, the dang, diggy, diggy. A room boy don't care with the bomb, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb, the dang, diggy, diggy. A room boy don't care with the bomb, the dang, trigger me no press people button. Nobody chat come face me with some. Like how me have 22 in a me some. Game say them a friend and them bad mind me friend. Anytime me ready fool, anytime stop. One or two take the long speech from the sky. My style is the bomb, the dang, diggy, diggy. A room boy don't play with the bomb, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb. E siamo tornati qui in diretta dagli studi Radio Panorama, sempre con l'Onda in Onda, sono le 19.33, ma di notte? Ma di notte sono... la notte no. Di notte non ci sono la le 19.33. La notte no, come diceva Arbore. Ma la notte no, l'una e 33, vediamo Eleonora che ci guarda dietro lo specchio con la faccia di Chirru Cacciavetta a Sosoro, come si usa a dire in Sicilia. E ricordiamo i contatti intanto. Sì, i contatti www.facebook.com/l'onda in onda con la L, oppure su twitter.com/onda in onda senza la L, sempre per andare al risparmio. Oppure ci mandate un sms, come già ce ne hanno mandati Luana e Fabio, Fabio e Luana, al 380 7690 204, oppure telefono fisso se volete farci sentire la vostra voce 091 888 5182. Se non siete già in streaming e ci ascoltate dalla radio della vostra macchina, potete arrivando a casa contattarci sul sito www.radiopanorama.info.eu e vedere anche le nostre belle faccine di Kaiser dalla webcam. Benissimo, torniamo alla classifica delle 10 cose che ancora oggi minano la nostra autostima. Andiamo alla posizione numero 7, la performance da ubriachi. C'è chi beveva per c'era chi beveva per perdere i freni. Scusate, no, è arrivato un messaggio. Lui ha letto c'è chi beveva per perdere i freni, invece c'era chi beveva e perdeva i freni. Ha sbagliato i tempi, i modi, tutto. Vai. C'era chi beveva e perdeva i freni, c'era chi faceva cose che non avrebbe mai fatto, c'era chi il giorno dopo ci ripensava e mica se lo ricordava che cosa aveva fatto. C'era chi lo faceva ogni sabato e ogni venerdì, c'era chi abbracciava chiunque e vomitava e limonava, c'era chi se per caso ricordava prometteva che non l'avrebbe mai fatto più e c'era chi regolarmente lo rifaceva. Ma soprattutto c'era chi beveva per perdere i freni. Sì, per perdere i freni. Cioè dice io la macchina voglio andare più veloce, stasera voglio bere e perdere i freni. Comunque no, ricordiamo anche che tra l'altro qui tutto all'imperfetto, io direi anche che c'è una persona simpatica, ci ha mandato un messaggio che non si può leggere, diciamo che grazie, ti ricambiamo. Come si vuol dire faccio un buco, no? No, ragazzi, faccio un buco alle 19.35. Gli idioti passati. Ma gli idioti. Gli idoli. Cioè, scusate, la posizione numero 6 si chiama gli idoli passati. Lui riceve. Questo è da applauso. Ma oggi ce l'ha regalata perché Andrea Massario, chi beveva per perdere i freni, gli idioti passati. Ma lui ride come un pazzo. Che è un idiota. Tu non li hai degli idioti passati che ti minano la tua autostima? L'avrai un idiota passato. È passato un idiota. Ma più che altro dovrebbero aumentare l'autostima agli idioti. Vedi un idiota, ah, mamma mia, quell'idiota come mi fa sentire misero. Attenzione, no? Abbiamo un altro messaggio perché magari ci regalerà un'altra idioti perla. Passati. Ciao Rambo. Rambo da Campo Felice. Saluta sempre Rambo. Santo, sì. Stefano. Santo Stefano. Santo Stefano. Prega per noi. Poi il paese, pensavo che era tipo per invocare Santo Stefano. Rambo, siamo agli idoli Rambo. Passati, ah, okay. Non gli idioti. Vabbè, ora passati. Pro nobis. Vabbè, gli idoli passati. C'era chi tappezzava la stanza di poster, c'era chi si comprava il cioè per staccarsi gli adesivi, c'era chi sapeva tutte, ma proprio tutte le canzoni a memoria. C'era chi credeva, non sperava, credeva che un giorno il suo idolo se lo sarebbe sposato, ci avrebbe avuto bambini e lui o lei si sarebbe ritirato dalle scene. E la foto è del tizio di, se non sbaglio, Beverly Hills, ora non ricordo il nome di lui. Forse Luke. Lo dedicherei ai Beliebers, cioè ai fan di Justin Bieber, e ai, sì, Directioners. I Directioners penso siano peggio dei fan di Justin, sì, Bieber, che sono tanti pirla di uno, sì. È facile eliminarlo in uno. Ma sì, i One Direction, anche sono se ne muore 5, uno, 6, credo continueranno, ah, sì. Addirittura hanno fatto il disco in tutte le edizioni, con ognuna con la faccia. Sai che tu preferisci uno, ti compri la copertina con quello, preferisci l'altro con quell'altro. Mamma mia. Vuoi la mucchiata, compri, no, il disco con tutti loro. Vabbè. Andiamo alla posizione numero 5. I vecchi aggiornamenti di stato. Ma io preferisco sempre gli idioti passati. Però andiamo alla numero 5. C'era chi, quando sono arrivati i social network, ha pensato di essere diventato famoso. C'era chi faceva le radiocronache delle sue giornate. C'era chi si sentiva ruvido come Bukowski o maledetto come Baudelaire. Ma il problema è che c'è chi lo fa ancora. Esatto, sì, esatto, purtroppo. Esatto. Purtroppo anche dopo quanti anni è che gira? 4. Ma sì, non lo so. Andiamo, dipende, già alla 4, quindi lasciamo poi il podio, sì, per lasciamo dopo. Lasciamo il podio per dopo. Ricordiamo le 10 cose che ancora oggi minano la nostra autostima. Ma scusa un attimo, c'è la foto dei quelli che credo siano gli FL65. Esatto. Non ricordavo che uno sembra Giuliano San Giorgi, l'altro Manuel Franzelli, come si chiama? Manuel Frattini, quello che fa Peter Pan nei musical a teatro, e il terzo un pirla, quello in fondo, non so bene. Poveretto, dai. Vabbè. Quei brani trash che ogni tanto spuntano su iPod. Alla posizione numero 4 c'era chi, mentre ascoltava la musica, metteva lo shuffle e non ci credeva di aver scaricato quella canzone. A me è successo con una di Britney Spears, non so come c'era finita. Vabbè. C'era chi si è ritrovato a canticchiare fiumi di parole. Ricordiamola, vuoi canticchiarla con me 2 secondi? Non la conosco nemmeno. Come non la conosci? I Jalis, fiumi di parole. C'era fiumi di parole tra noi, se vuoi ora parla con lui. Mamma mia, c'era chi se l'era dimenticato, ma durante un trasloco si era accorto di avere ancora il CD degli FL65. Dimmene una degli FL65. Listen, what is the story about it, the girl blue in the blue world. Mamma mia, era veramente un periodo schifosissimo degli FL65. Però vabbè, ce le ricordiamo, quelle di ora, tranne alcune, purtroppo, insomma. Purtroppo. Vabbè. Direi invece di passare a una bellissima canzone di Caparezza che dedichiamo ai Maya, di Gaia, come sempre, sì, anche se non c'è stata la fine di Gaia. Restate con noi perché ci saranno i film brutti e poi il podio della delle ultime posizioni della classifica delle 10 cose che ancora oggi minano la nostra autostima. Passa anche il cavaliere. Uomini Godzilla né coi passi della Bibbia Gaia sopravviverà. A questi cazzo di asteroidi che non hanno mai schiacciato neanche una farfalla. Sei tu che tratti Gaia come una recluta naia. Ami il petrolio ma la paglia non è una caldaia. La tua mannaia l'Himalaya mica l'Himalaya. Gaia si salverà, chi salverà il soldato Ryan. Non i marziani ma te dovrò respingere. Non i marziani ma te. Ebbene, ritorniamo in diretta, sempre da Radio Panorama con l'Onda in Onda. Riprendiamo la nostra classifica, concludiamo la nostra classifica in realtà delle 10 cose che ancora oggi minano la nostra autostima. Ricordandovi che fra poco ci sarà con noi Marco di Film Brutti, quindi preparatevi, finita la classifica, ad autopunirvi con il Film Brutto della settimana. Siamo al terzo posto, sì, nel podio, abbiamo il vecchio indirizzo email. C'era chi scrivendo l'indirizzo email si sentiva un supereroe, c'era chi lo aveva memorizzato e non gli dava più peso, e poi il giorno in cui doveva compilare i campi del curriculum non ci poteva credere che la sua identità su internet era stata affidata per anni a quella sequenza di lettere. C'era chi si vergognava e lo cambiava. C'era chi si vergognava e non lo cambiava. E poi andiamo alla posizione numero 2, i passati amori. Ma io preferisco sempre l'idiota. Gli idioti passati. I passati idioti, vai. I passati amori, c'era chi c'era stato assieme a anni e lo amava davvero. C'era chi ci aveva sofferto, e nemmeno poco. C'era chi aveva detto sarà per sempre a qualcuno con cui tempo dopo non avrebbe voluto nemmeno passare 10 minuti. C'era chi faceva progetti che non sembravano nemmeno giganti. C'era chi non avrebbe mai pensato di dire un giorno: ma come cazzo facevo a starci assieme? E poi andiamo alla posizione numero 1 delle 10 cose che ancora oggi minano la nostra autostima. Bellissima questa. Le vecchie foto. E infatti c'è una foto molto ridicola di un uomo. C'era chi faceva le foto, c'era chi usciva male nelle foto, e c'era chi aveva tagli di capelli assurdi. C'era chi aveva facce improponibili, c'era chi non apriva la carta d'identità per paura di riguardarsi. Ma io ho paura anche ora, compa, lo so anch'io. E c'è chi odiava intensamente quei quattro stronzi che escono sempre bene nelle foto alle macchinette. C'erano tutti questi, già, c'ero anche io. E abbiamo finito con la classifica delle 10 cose che ancora oggi minano la nostra autostima. Ma restate con noi perché sigla è subito il Film Brutto della settimana. Credi di avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col Film Brutto della settimana. E diamo il benvenuto per la seconda volta in questo 2013 a Marco! Ciao! Grandissimi! Ma sei tu il grandissimo! Facciamo un applauso! Perché sei il nostro dio, il dio dei film brutti! Come stai? Come stai, carissimo? Molto bene, spero anche voi, ragazzi. Sì, sì, sì, qua fa un po' più freddo, però sempre per le temperature vostre è sempre AFA, 9 gradi. Siamo bene, ma vogliamo star male, quindi Marco, cosa ci proponi oggi? Flagellaci! Beh. Stasera c'è un grande classico, il titolo è Zombie Lake. Ma Lake nel senso di nudo? Lake, lago. No, lago. Nel senso di lago. Il lago, infatti il titolo originale francese è Le Lac des Morts-Vivants, per averlo pronunciato bene. Applausone per il francese, attenzione, applauso per il francese. Scusate, c'è stato un attimo pure un urlo a stadio. Allora, parliamo di Zombie Lake. È un film di Jean Rollin del 1981 ed è un classico del sottogenere zombie nazisti. Praticamente il film si svolge in un piccolo villaggio francese poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel cui vicino lago erano stati sepolti dalla resistenza i cadaveri di soldati tedeschi che erano stati trucidati. Questi soldati chiaramente non ci stanno e quindi risuscitano, o meglio si zombificano, e cominciano, diciamo, a mettere vittime, soprattutto femminili. Sì, vediamo la locandina, tra l'altro chi ci segue su Facebook già il film l'aveva in anticipo, sapeva già il titolo del film in anticipo, ma la locandina la vediamo con la Lake de Mort Vivant. Io non le lac de mort vivant. Non riesco a pronunciare bene come voi. Andrea le poste da francese nel senso gay del termine, però non riesce a parlare in francese. Vabbè. La locandina già mostra una bella ragazza nuda in questo lago. Sì, ce la immaginiamo. È una palma. Continua, Marco, tanto era solo un'introduzione per la, insomma, per la ragazza. Certo, la ragazza è importante perché praticamente questi zombie sono un po', diciamo, sessuomani, insomma, diciamo, vanno praticamente solo a caccia di donne in questo villaggio. E questi zombie si caratterizzano per avere praticamente il trucco più brutto della storia. Sono praticamente semplicemente dipinti di verde in faccia, ed è bellissimo quando aggrediscono la gente, perché il trucco praticamente si trasferisce alla vittima, tanto è, diciamo, poco curato, insomma. E anche le movenze di zombie sono rimaste nella storia perché sono veramente scattosissimi, e le scene di aggressione non sono per niente credibili, sono praticamente dei esercizi cinici venuti male, ecco. Scusa, sono veramente spigolosi, direi. Il colore verde è dato perché? Cioè, quello che non perché riesco c'era a... quello. Perché c'era, dice, c'era quello e quello hanno fatto. Esatto. Non so se forse, diciamo, può essere diciamo scusabile con il fatto che questi zombie emergono dal lago, che è un po' paludoso, però diciamo è una spiegazione un po' tirata per i capelli, insomma. Il film si trova in italiano, tra l'altro, no? Sì, no, è doppiato in italiano tranquillamente. Ah, voglio vedere. Se avesse voglia magari di visitare qualche vecchio video noleggio, potrebbe anche avere la fortuna di trovarlo in VHS come abbiamo fatto noi a suo tempo, insomma, è quasi un cimelio. Io lo voglio vedere anche perché i zombie nazisti mi fanno. mi attirano tantissimo. Soprattutto mangiatori di ragazze nude. Sì. Marco, la scena clou qual è di questo film? Se ce n'è una, ma immagino ci allora, sia. Allora, no, ce ne sono diverse, ma sicuramente direi quella in cui, diciamo, la bambina che vedete, c'è una bambina in questo villaggio che è figlia di uno degli zombie nazisti, e lo zombie, diciamo, va come fa? Perché l'aveva fatta prima. Quindi il zombie, diciamo così, inconsciamente va a cercarla per vederla, e praticamente la difende, diciamo, dall'attacco di un altro zombie in una scazzottata a rallentatore, che è una cosa meravigliosa, veramente incredibile. Ma rallentata dalla regia o rallentata? No, rallentata proprio dai movimenti penosi dei due. No, bellissimo, ragazzi, veramente incredibile. Cioè, proprio fanno il rallentatore in una maniera veramente. Non avevano neanche i soldi per fare il rallentatore. Niente, no, assolutamente. Va bene, e con che cosa l'accompagniamo? Con quale leccornia di quelle che ci suggerisci zombie, tu? Insomma, per gli zombie nazisti, cosa? Me... Cervello? Dei crauti. Secondo me questo film si sposa bene ai popcorn al caramello. Esattamente. Ho capito, corna al caramello. No, popcorn a caramello, sono dei classici, diciamo, sì, snack, facili anche da fare, no? Che sono veramente una delle cose più dolci che esista al mondo, sì, e quindi, diciamo, la masticazione poi diventa veramente difficile ed è lenta, come è in realtà lentissimo il film, insomma. Lento di contro. È di una lentezza esasperante, infatti non è consigliato particolarmente per i neofiti, diciamo, dei film brutto. È meglio autoponirsi prima con qualcosa di più veloce, insomma, qualcosa che riesca a tenere almeno svegli. Vabbè, è troppo brutto. Però, insomma, il nazi zombie rende sempre. Sì, questo è vero. Vedendo le immagini di questo film, c'è un uomo che esce dal lago con un occhio palesemente truccato. Sì, pazzesco. Veramente brutto. Poi fa Dracula nella scena dopo. Sì, cioè, sì, sicuramente. Tra l'altro, suggerisci anche, se ti piace, guarda anche Oasis of the Zombies. Allora cercheremo anche quello a seguire. O magari ce lo proponi. Esatto, ne parleremo la prossima settimana. Va bene, noi ringraziamo come sempre, siamo onorati di averti qui e di sentire. Grazie i tuoi consigli preziosissimi. Mi raccomando, Zombie Lake, cercatelo, trovatelo in streaming, nelle migliori videoteche, dove volete. Va bene, Marco, ci risentiamo mercoledì prossimo, e nel frattempo la dedichiamo anche a te, ci spariamo a Brian Setzer con Summertime Blues. Ciao ragazzi, ciao. No dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mama and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. No, you can't use the car, of course you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Yeah! Ed eccoci qua ancora in diretta, sono le 19.52. Un po' mi viene da piangere che mancano 6-7 minuti insieme. Volevo stare ancora. Questa puntata è volata, mi sono divertito un parecchio. Volata? Sì, verso gli idioti passati. Esatto, quali sono state le altre frasi belle di questa puntata mie? Beh, ti chiami Andrea Massario. Abbiamo iniziato così. Poi hai detto anche il nostro ascoltatore famoso. Il nostro ascoltatore è famoso perché non ti dico assiduo. Insomma, cose incredibili, cose veramente. Anche coniato altri sinonimi oggi. Sì. Famosa da oggi è sinonimo di assiduo. Sì, no, ma appena detto anche altre che non mi vengono in vabbè, mente. Quella per perdere i freni. Sì, per perdere i freni, è vero. Cambiava le parole. Le raccoglieremo. Sì, faremo un grande libro, come lo chiamiamo? Le mie minchiate, dopo le mie prigioni. Esatto. Le mie minchiate. Volevo salutare la mamma di Stefania che ci sta ascoltando. Quindi saluta la signora come si deve, Andrea. Buonasera, signora. Tanti saluti da me. Da te e dagli altri. Da tutti voi. E allora, a proposito di notizie belle, oggi questa me l'ha suggerita mia madre, mi era sfuggita. Sempre di mamme. Donna ruba un treno e si schianta. Ah, l'abbiamo visto al telegiornale, purtroppo. Io no. Come no? Non lo sapevi. Ho visto le foto durante le prime ore del mattino di martedì, per chi non lo sapesse, una donna delle pulizie di 20 anni è riuscita a impossessarsi di un treno nella stazione di Neglinge. Da lì è partita verso il quartiere di Salzjöbaden. Credo che siamo in Svezia, se non sbaglio, un'area dove solitamente il treno transita a una velocità massima di 10 km all'ora. Nei pressi della stazione, appunto, di Salzjöbaden, il treno viaggiava a una velocità di circa 70 km all'ora. Questo ha causato un deragliamento e il treno fuori controllo si è schiantato contro il primo piano sì, di un'abitazione vicina ai binari. Sei indietro. Per fortuna non cioè, è decollato molto. Il treno per andare al primo piano. O forse era il binario che era più alto. C'è rimasto male. Guarda, non l'avevo valutato. Non perché neanche valutato. Io l'avevo valutato. Quindi due pirla, però io me ne sono ravveduto. Ma Andrea, tu che hai visto la notizia? Tu che hai visto la notizia? Lui deve vedere le notizie. È il finale, stiamo degenerando. Aumenta un attimo su Santana che è meglio. Va bene, volevamo sentire un attimo quel bel rullazzo di tamburi come si deve sul Wall of the Love. Invece un piccolo suggerimento, un appuntamento importante per Palermo e per tutti gli abitanti della provincia di Palermo, non solo per Palermo, i giovani al Teatro Massimo. Dopo il successo dell'anno scorso ci sarà l'anteprima dell'opera Das Rheingold. Come? Das Rheingold. Non ho mai studiato tedesco, un passo improvvisando, quindi non prendere in giro. Okay. L'oro del Reno, tradotto in italiano, è la prima delle quattro opere che costituiscono la tetralogia dell'Anello del Nibelungo di Richard Wagner. Gigioneggiando, inaugurerà la stagione del Teatro Massimo. Se il regista continua a mungere mucche, io mi arrabbio. E poi a seguire ci sarà anche la serata ai Candelai. Trovate i biglietti, se volete, dalle 14.30 alle 17 ogni giorno al Teatro Massimo, cioè ovvero domani, perché esatto. Poi venerdì è il giorno dello spettacolo. Va bene, è stato bello, sono le 19.55 minuti. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, visto che siamo in periodo di politica, di elezioni che si avvicinano. Ci ascoltiamo una canzone che riguarda anche la politica. Lui era Andrea, quell'altro è Alessandro, io ero Antonio. E ci vi vediamo. Ricordiamo che potete ascoltarci in replica a mezzanotte. Ciao. Deva sui problemi dello Stato, sando a finire sull'hashish legalizzato. E casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15, ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano, e il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così. Che bello, due amici, una chitarra e uno spinello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, le tue boccate di felicità. Oh, why not? Ah, bueno. Ma l'opinione di sì io non la contate, no, dico. E che reputazione ditti un po' vi fate, ah. La gente giudica voi state un po' in campana, ma quello invece di ascoltarmi continuò. Che bello, col pakistano nero e con ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Così di casa li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno,